X24, la storia. Il 3 aprile 1924 nasce Marlon Brando, il protagonista di film celeberrimi e indimenticabili. Il Padrino, L'ultimo tango a Parigi, un tram che si chiama Desiderio, Fronte del Porto, Apocalypse Now. La sua voce in originale era una voce unica, la sua fisicità così dirompente, sia quando era all'apice della carriera, sia negli anni del declino, esprimeva un profondo senso di libertà e un narcisismo assoluto. Amatissimo dalle donne, si è lasciato alle spalle 3 matrimoni e moltissime amanti. Quella di Marlon Brando è stata una vita tormentata, dolorosa, trascorsa nel disagio. Un'infanzia e un'adolescenza con 2 genitori alcolisti e poi, come marito e padre, altri dolori e altre tragedie. Los Angeles, 1 luglio 2004, muore Marlon Brando. Colui che molti considerano il più grande attore del secolo trascorre gli ultimi giorni nella sua camera da letto sulle colline di Hollywood. Il sex symbol degli anni 50 è a letto con i tubi per l'ossigeno, disfatto dall'obesità, devastato dai suoi 80 anni, circondato dal suo stesso mito. Fino alla fine passa il tempo telefonando ai suoi amici più cari, i suoi alleati più fedeli. Forse ripensa a quanti ha fatto soffrire, a tutti quelli che ha allontanato da sé, come la sua prima moglie. No, era una persona vendicativa. Malvagità pura. Malvagità pura. Tra le ultime persone che vede c'è il suo amico Scott Bellops. È stato lui a filmare la sua ultima apparizione pubblica 2 anni prima, in un workshop che Brando stesso ha organizzato. Aveva il pigiama sotto la giacca e la flebo nel braccio. Appena finito, gli hanno somministrato delle medicine e lui si è spento, quasi istantaneamente. Mi sono spaventato a morte. Ma in fondo sarebbe morto dopo 10 giorni. Per generazioni in tutto il mondo Marlon Brando è stato l'irripetibile, indimenticabile star del Padrino. La sua voce era unica. Brando crea un volto e una voce ispirandosi ai boss locali della mafia incontrati durante le riprese di Fronte del Porto. Al provino, con Francis Ford Coppola, si presenta con dei fazzoletti nelle guance e una voce morbida e sofferente. Il regista ne è conquistato immediatamente. Ora deve solo convincere i produttori. Così racconta Peter Manso, biografo di Brando. Per Hollywood, la carriera di Marlon Brando era già finita alla fine degli anni 60. Aveva girato una serie di film vincolato dai contratti dove era apparso scialbo, quasi anonimo. C'erano sprazzi del suo genio, naturalmente, ma non era più il grande Marlon Brando. Per Il Padrino si preparò con grande cura per il ruolo di Don Corleone. Lo voleva a tutti i costi. Bob Evans disse: ma chi è? Non lo avevano neppure riconosciuto. Ma una volta capito che si trattava di lui, disse: neanche a parlarne, Brando è ingestibile. A quel punto Francis fece finta di avere una crisi epilettica, si buttò a terra urlando e i produttori cedettero. D'accordo, lo prenderemo in considerazione per il ruolo, ma prima devi imbrigliarlo. Marlon aveva dato di matto nei film precedenti e questo era un problema. Accettò una paga molto bassa, quasi ridicola, circa $50,000, con in più il 3% dell'incasso lordo. Insomma, non se la passava bene. Era proprio al verde, niente soldi, bruciato completamente. Sa com'è, investimenti sbagliati. E ora si vendeva per pochi spiccioli, poche centinaia di migliaia di dollari. Il film incassò milioni e milioni e milioni. Ogni volta che quei film passano in TV, Coppola riceve un assegno. Però Brando si è vendicato con Apocalypse Now. Lei è un assassino. Sono un soldato. Per Apocalypse Now chiede e ottiene $1,000,000 ogni 10 secondi in un film dove appare per meno di 2 minuti. Una pietra miliare nel mondo della recitazione. B.B. e D.B. Prima di Brando e dopo Brando. Tu la vuoi sapere la mia teoria? Dalle prima che te le dia. Can you picture what the... Il film spartiacque è un tram che si chiama Desiderio. Prima di Brando, gli attori delineano i personaggi come dei modelli di virtù. Marlon Brando, e soltanto lui, li rende brutali, usando il suo corpo e recitando con le viscere. Ascoltiamo l'attrice Patricia Bosworth. Ha sorpreso i critici di tutto il mondo. New York, Londra, Parigi, Roma. Brando, nel ruolo che lo ha reso una star. Brando usava il suo corpo con una libertà e un narcisismo assoluti. Quei jeans e quella maglietta diventano un uniforme, anzi direi l'uniforme. E se la vogliamo dire tutta, lo sono ancora adesso. Sono ancora un uniforme. Ecco Brando, nel sensuale personaggio di un operaio come mai si era visto prima. Durante le riprese, la responsabile dei costumi decide di fargli mettere i jeans e lui risponde: li voglio aderenti. E li indossa senza mutande per far intravedere meglio il suo corpo. Era un simbolo di libertà e di indipendenza, come pure la motocicletta. Ecco, lui rappresentava la ribellione. Con il film Il Selvaggio, ai jeans e alla maglietta, Brando aggiunge il giubbotto di pelle e la moto, diventando l'icona di una moda che ancora oggi fa scuola. La ribellione di Brando viene ripresa dai giovani disillusi degli anni 50. Fu il simbolo di tutto quello che venne dopo, come il rock and roll. Elvis Presley idolatrava Brando. Proprio perché arrivò dopo. Ci fu prima Brando e poi Presley. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24. Marlon Brando, una delle più grandi stelle del cinema americano. Ma da dove veniva il suo talento? Da una donna che amava sua madre e dalla sua infanzia passata con una madre alcolizzata, come spesso confida al suo amico George Englund. Mi diceva: tornavo da scuola in seconda o terza elementare e lei era lì, a quell'angolo, con in mano una bottiglia. Io la guardavo per farle sapere che ero arrivato e la chiamavo: mamma, mamma, guardami, sono limpia, la nostra mucca. E facevo un grosso muggito, spalancando gli occhi, e questo la svegliava. Così continuavo per tenerla sveglia e poi imitavo il maiale e il nostro cane e anche i vicini, e la mamma rideva. Ma odiavo fare queste cose. Io volevo essere come tutti gli altri. Il figlio che torna a casa e lei è lì con la torta di ciliegie. Anche suo padre è un alcolista. Brando ha paura di lui. È un uomo insensibile e violento che picchia la moglie. La sua infanzia è difficile, va male a scuola e si convince di essere stupido. Sua madre adora il teatro e in passato ha anche recitato. È lei ad incoraggiarlo a salire sul palcoscenico e Marlon Brando scopre qualcosa in cui è bravo. Finalmente si fa notare dai suoi genitori. Ce ne parla il suo biografo Peter Manso. Poi nella sua vita accade un evento decisivo. Sua madre muore. Ha inizio il suo declino. Marlon non è più costretto a dimostrare di essere un grande attore, perché quello che aveva fatto, lui lo aveva fatto per lei. Improvvisamente Marlon Brando si sente libero. La sua carriera non è più una priorità. E allora decide di dedicarsi al suo principale interesse, le donne. Beh, è la verità. È l'inizio di un periodo sfrenato di libertà sentimentale e sessuale. A poco più di 20 anni Marlon Brando è un divo e la fama ovviamente accresce il suo potere di seduzione. Così lo ricordano l'attrice Patricia Bosworth e il produttore George Englund e Ellen Adler, ex amante di Brando. Era talmente bello da giovane che poteva avere qualunque donna volesse, e lo fece naturalmente. E le donne lo sapevano. Se una donna bussava alla sua porta e ne trovava un'altra nel suo letto, gli diceva: scusami, torno dopo. Succedeva così. Sapevano tutte di essere parte di un harem gigantesco. Gli dissi: sai, Marlon, potresti chiamare qualunque donna sull'elenco del telefono. Sposate o no, verrebbero tutte da te. Ci rivediamo. E perché? Così. Beh, andiamo. Aveva una sensualità incredibile. Non direi che fosse romantico, anzi, tutto il contrario. Era solo un macho, un maiale sciovinista, come infatti è stato definito da qualche femminista. Ma sono convinta che anche a loro sarebbe piaciuto andarci a letto. Era un sex symbol. Quando scendeva da un aereo, le donne si aprivano la camicetta. Aveva il sorriso più seduttivo e coinvolgente che avessi mai visto in vita mia. Sono stata una delle sue donne. Abbiamo avuto questa storia d'amore molto seria quando eravamo giovani. Lui sapeva come sedurti. Si interessava a te come nessun altro avrebbe mai fatto, inclusi tua madre o tuo padre. Ti studiava a fondo, ti ascoltava. Ascoltava tutto quello che dicevi. Voleva conoscerti davvero, a fondo. Era questo che ti lusingava. Ed era molto fisico. Quando ti teneva stretta, ti conteneva. Le sue mani le sentivi dappertutto, in qualsiasi posto. Molto fisico. Le diceva: fammi vedere la mano. Lei gli dava la mano. Lui la teneva tra le sue e cominciava a massaggiarla. Ma non come se la stesse stringendo, piuttosto come se dicesse: ecco, in questo momento è come se mi trovassi nelle tue mutandine. Aveva donne che si conoscevano l'un l'altra, e quindi una veniva e l'altra andava. E poi aveva la segretaria, la cuoca, che gli facevano da amanti, da vere amanti. E poi le sue fidanzate. C'era sempre questo conflitto, c'è sempre stato. Non capivo bene cosa facesse, ma di certo faceva loro del male. Con lui ci si faceva sempre del male. Lo so perché ci sono passata. Sono stata così male con lui quando ero giovane, e anche dopo, gli anni successivi. Direi che quello che mi è rimasto di quell'esperienza è il dolore. Oh, ti prego, lasciami fare. Lasciami fare. Chi cerchi di ingannare oltre te stessa? Ragazzina, un uomo che ti stringesse davvero ti spezzerebbe come una fascina di sterpi. Tra le tante avventure, quella con Cristina Maria Ruiz. Ce la racconta George England, produttore e amico di Brando. Cristina era la sua cameriera. Lei veniva dal Guatemala. Non ricordo esattamente da dove. E una delle cose importanti è che lei non sapeva chi fosse Marlon Brando. Non sapeva niente di lui. Mi ricordo il giorno in cui Marlon ha cominciato a parlarmi del suo sedere, di quanto fosse straordinario. E io ho pensato: di tutti i bei sederi che ci sono al mondo, hai scelto il suo? Per carità, non era affatto male, ma non era neanche niente di straordinario. E come sia arrivata al matrimonio con lei a farci tre figli, resta un mistero. È stato mai violento? Non con me. No, con me mai, ma ho sentito che lo è stato. Anna Casfi, la prima moglie di Marlon Brando, vive oggi con il sussidio statale in una roulotte dimenticata da tutti, anche dal figlio che suo marito le ha sottratto, che non le ha fatto vedere per più di 10 anni. Quando si sono conosciuti, lei non sapeva chi fosse Brando. La eccitava molto e lui la considerava la donna più bella del mondo, quasi sua di diritto. Ascoltiamo il racconto della stessa Anna Casfi e poi quello del suo biografo. Di Marlon mi piaceva il suo modo di pensare. Era generoso, gentile, non solo con me, ma con tutti. Che genere di amante era? Ottimo. Sì? Sì, così era discreto. Delicato? Ma ho anche sentito molte storie strane che giravano. Che genere di storie? Omosessualità. Un astrologo di nome Ben, un giorno me lo vedo arrivare a casa, è evidente che è gay, insomma, ha i capelli ossigenati e tutto il resto, e io lo guardo. Aveva gli occhi rossi come se avesse pianto. Mi dà una busta e mi dice, questa è per te, credo che la troverai molto utile. Cosa c'era scritto? Che stava con un uomo. Chi? Marlon. Cioè, ha aperto la busta e cosa ha visto? Marlon con un altro uomo, che aveva un rapporto sessuale con un altro uomo. A letto? Sì, no, non a letto, no, il letto non si vedeva. La classica situazione in cui ti senti davvero una stupida. Ho scoperto che quell'uomo era l'amante di Ben. Si è innescata una nuova forma di gelosia, una tragedia. Ho sempre conservato quella foto. E quando Marlon era cattivo con me, io dicevo, ok, vuoi un problema? Te lo do io un problema. Alla fine ho lasciato Marlon. L'ho lasciato quando tutto questo è saltato fuori. Lui non lo ha capito, anzi, non riusciva neanche a crederci, perché all'epoca diceva, io sono Marlon Brando, e io rispondevo, e questo che c'entra? Sai quanto me ne importa? È per quel motivo che era arrabbiata con lui? Certamente, perché non era mai accaduto nella sua vita prima. Mi sono presa il bambino e me ne sono andata, tutto qui. E lui le è corso dietro? Marlon era furioso. Così sono andata in tribunale per cercare di fermarlo. E lui mi ha detto, ma tu lo sai quanti soldi ho? Mi ha fatto capire che con i suoi soldi avrebbe potuto comprare qualunque giuria. E lo ha fatto perché... Da qui quel famoso schiaffo? Sì, mi ha portato via mio figlio. Per quanto io combattessi, l'unica cosa che avevo in mano era quella foto di Ben. L'ho data al giudice. Quando mi ha chiesto se avevo qualche prova da portare contro Marlon, ho risposto di sì. E ho deciso di dargliela. Così ho riavuto mio figlio. Rita Moreno, sua amante per moltissimi anni, devotissima a lui. Attrice e ballerina, Rita Moreno cerca di suicidarsi davanti casa di Marlon. Si taglia letteralmente le vene, stramazzando al suolo davanti alla sua porta. Ma riesce a suonare il campanello prima di crollare, probabilmente sanguina come un maiale sgozzato. È notte. E in casa, insieme a Marlon, c'è Alice Marshak. Marlon non la porta in ospedale. È Alice a farlo. Non voglio essere disturbato. Tina Pelaseo, attrice messicana. Lui continua a incoraggiarla a suicidarsi. Forza, se senti di doverlo fare, fallo. E lei lo fa. Lo fa davvero. E anche Tarita lo ha assecondato. Lo hanno fatto tutte. Marlon era onnipotente. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24. La vita di Marlon Brando è costellata da tantissime donne, ma è Tarita forse a occupare un posto davvero importante nella vita dell'attore. Le riprese degli Ammutinati del Bounty aprono a Brando un mondo tutto nuovo. A Tahiti, dove si girano gli esterni, incontra la figlia di un pescatore. Per lei il mito di Marlon Brando non significa nulla. Fletcher Christian è il mio nome. Il mio nome? No, Fletcher. No, Fletcher. Marlon Brando conquista Tarita sullo schermo, ma non nella vita. La ragazza infatti a malapena lo sta a sentire. Quando le riprese si spostano a Hollywood, Brando continua a corteggiarla. Ma la ragazza si ostina, sembra del tutto insensibile al suo fascino. Alla fine, complice il successo del film, dopo aver dormito accanto a lui vestita e libata per diversi mesi, anche Tarita soccombe. Resta incinta di Brando, che ha già 3 figli da altre 2 donne. Brando cerca in ogni modo di convincerla ad abortire, ma la ragazza non vuol saperne. Brando allora minaccia di non riconoscere il figlio. Intanto pretende che la ragazza nasconda la gravidanza. Tarita torna a Tahiti, da sola, dove dà alla luce il suo bambino. Solo in seguito Brando si trasferirà in Polinesia, riconoscerà il bambino e sposerà la madre, senza però mai più dividere il letto con lei. Ascoltiamo la stessa voce di Tarita Teripa Brando. Dopo la nascita di Teotu, lei e Marlon non avete mai più dormito insieme? Mai? Nemmeno una volta? Una volta sola? No. No. Io non gli ho creduto. Pensavo scherza. Invece non scherzava. Affatto. Brando si innamora di Tahiti. Compra un atollo intero, Tatiaroa, non lontano da Papiti, dove torna ogni anno per vedere Tarita e vivere una vita semplice, lontana anni luce da Hollywood. Alcuni anni dopo, Brando vuole un altro figlio da Tarita. Ma poiché continua a rifiutarsi di dividere il letto con lei, il bambino viene concepito artificialmente. Nasce un'adorabile femminuccia, alla quale viene dato un nome indiano, Cheyenne. Sarà la figlia prediletta. Per Brando quella Tahiti è la sua vera vita. Qui è libero, qui il suo tempo è prezioso. A Los Angeles invece deve nascondersi tra le colline di Hollywood, lontano dai paparazzi e dagli studios che detesta. La sua casa, per quanto isolata, è circondata dai bambù e la sua sicurezza è assicurata con ogni strumento tecnico esistente. Pigro per natura fino al paradosso, Brando trascorre la maggior parte del suo tempo a letto, da dove osserva e ascolta chiunque passi a trovarlo. A Marlon Brando importa così poco della sua immagine che non si fa scrupoli a cedere ai vizi di gola. Un tempo bello come un dio greco diventa obeso fino a sfiorare 180 kg. Così lo ricorda la sua ex amante Ellen Adler. Non era affatto un ubriacone, ma tutta la famiglia era alcolista, era quasi una malattia ereditaria. E il suo modo di colmare quella terribile solitudine senza fare uso di alcolici era mangiare, tutto qui. A nessuno è permesso entrare a casa sua. Gli sceneggiatori devono lanciare copioni al di là di un filo spinato degno di un campo militare in Vietnam. Quando a Brando servono soldi, comincia a vagliare le proposte degli studios, ma solo per somme consistenti. Qualche mese prima della sua morte, Brando si prepara a fare un altro film, una storia incredibile, una storia autentica. Tra tutti i copioni che accumulano a casa sua, ne legge uno di un regista tunisino. Brando invita l'autore Rida Bey a Los Angeles. In Tunisia, in Francia, ovunque, tutti mi prendevano in giro. Rida Bey e Marlon Brando? È una delle infinite contraddizioni di Brando. Finanzia Israele e visita i campi profughi nei territori palestinesi. Forse accogliere il regista arabo, figlio di un terzo mondo che da sempre lo affascina, per lui è un modo di pagare un debito morale. Dopotutto, quando si allontana dal grande schermo, Brando è un uomo molto ricco, che non lesina la sua generosità. Per molti anni dedica il suo tempo, la sua fama e il suo irresistibile sorriso a un gran numero di cause. Si dedica ai superstiti della Shoah, poi ai neri d'America e ancora agli indiani. Percorre gli Stati Uniti del Sud per sostenere i diritti civili. Visita le piccole cittadine razziste, quelle dove i neri ancora non hanno diritto di voto, anche a rischio della propria vita. Voglio contribuire alla protesta. Profondendo energie e soldi, difende un movimento radicale come le Black Panthers. Ma sono soprattutto gli indiani d'America ad appassionarlo. Convintosi che siano da due secoli oggetto e vittime di genocidi, combatte al loro fianco senza sosta. Io sento che hanno diritto alla loro, libertà, quando ascolto il signor Reagan parlare di libertà. Il 20 aprile 1972, alla cerimonia degli Oscar, al posto di Marlon Brando, miglior attore per il film Il Padrino, sale sul palco Sachin Littlefeder. E gli Stati Uniti d'America dovrebbero cambiare. E anche l'industria del cinema deve cambiare l'idea che ha degli indiani d'America. Così come pure il governo. La morte di Brando, avvenuta 2 mesi dopo, impedisce a Rita Bey di fare il film e realizzare il suo sogno. C'è un luogo magico in cui Brando, ormai prossimo alla morte, sente la mancanza più di ogni altro, la campagna dove si rifugia dalla sua amica Joanne. Brando adora questo posto. Qui c'è sempre un bungalow e un letto che lo aspettano. Quando non può più andarci, mentre l'ultimo sipario sta per calare, passa ore al telefono con i suoi migliori amici. Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Questo era Marlon Brando come padre. A volte sentiva il bisogno di Christian. Ho passato ore ad ascoltare Christian, che mi raccontava che i momenti più belli, sia per il padre che per lui, erano quelli che avevano passato insieme. I ricordi di Tahiti, mentre guidavano un bulldozer facendo dei grossi solchi. Tornati a Los Angeles, quando Christian aveva 15-16 anni, ci sono state volte in cui Marlon lo ha buttato fuori di casa facendolo dormire in strada. Perché? Perché non aveva falciato l'erba. Marlon era incapace di mantenere una relazione. Ma bisogna ricordarsi sempre che lo stesso Marlon non ha mai potuto contare su sua madre, perché non c'è mai stata per lui. Nel 1990 la vita di Marlon Brando va in pezzi. Il suo figlio primogenito Christian, che Brando aveva sottratto alla prima moglie, uccide proprio in casa dell'attore il fidanzato della sorellastra Seyenne, rimasta incinta. Tutto ha inizio in una serata di alcol e droga, quando Seyenne confida a Christian che il fidanzato la picchia. Il giovane torna a casa, prende la pistola del padre e spara al ragazzo a sangue freddo mentre sta guardando la televisione. Christian viene arrestato e processato. All'udienza per la cauzione, Brando chiede di deporre in aula. Molti però giudicano la sua commozione il trucco di un vecchio mestiere dello schermo. Neanche i giudici si fanno intenerire. Per la libertà di Christian impongono una cauzione astronomica di 10 milioni di dollari. Ce ne parla il suo amico e produttore George England. Io ero lì mentre Brando cercava di far uscire Christian. Ma devo dire che fece una pessima impressione in quel processo. Marlon non ha nessuna moralità. Non gli è stata insegnata e non l'ha mai sviluppata. Ipotecando tutti i suoi beni, Brando trova i 10 milioni di dollari della cauzione. Il giorno del rilascio di Christian è come una premiere di Hollywood. Sono orgoglioso che mio figlio sia uscito di prigione e... ora andremo a casa a riposarci. Cosa mi ha sempre ripetuto Cheyenne mille e mille volte? Hai visto il film Il Padrino? Lo hai visto? Il padre di Marlon picchiava la moglie. Erano sempre ubriachi. E Marlon, che all'epoca aveva 15-16 anni, a Libertyville, la fattoria che avevano, apre lo scrittoio del padre, prende la sua calibro 45, quella che aveva in dotazione nell'esercito, e gliela punta in faccia. Arriva tanto così da ucciderlo. Gliela punta in faccia e gli dice: «Non ti azzardare mai più a picchiare mia madre o ti ammazzo». E l'ironia, la tragica ironia, è che è esattamente quello che Marlon ha detto a Christian di fare, solo che Christian non si è fermato. Christian ha preso la 45 di Marlon e ha fatto saltare la testa a quel ragazzo che picchiava sua sorella. Una tragedia. Non sto dicendo che Marlon gli abbia detto «va e uccidi». Doveva solo spaventarlo, ma lui era come un cowboy, fuori dalla mia terra, non so se mi spiego. Doveva rimandarlo a Tahiti? Sì, Christian doveva semplicemente cacciarlo via. Marlon gli dice «va da lui, scopri se la picchia davvero e caccialo via». Christian è sempre alla ricerca dell'approvazione del padre, ma stavolta la fa troppo grossa. E per loro, per tutti loro, è la fine. Questa vicenda distrugge l'intera famiglia, o meglio, qualunque cosa ne fosse rimasta. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Nella vita di Marlon Brando, il processo al figlio Christian è solo l'inizio della tragedia. Quando iniziano le udienze, è presente tutta la famiglia. Brando, che ha assunto i migliori avvocati, è fiducioso. Quando il figlio viene condannato a 10 anni di prigione, Brando tira un sospiro di sollievo, ma non è ancora finita. Dopo l'omicidio del fidanzato, Cheyenne torna a Tahiti per partorire. La giovane tuttavia è molto turbata. La madre Tarita è costretta a ricoverarla in un ospedale psichiatrico, prima a Tahiti, poi in Francia. Infuriato per la sua decisione, Marlon Brando la fa uscire dalla clinica e la porta a vivere con sé. Decide di dedicarsi solo a lei. Affida Cheyenne a una clinica in California, ma ormai la ragazza è sempre più grave. Quando si trova di nuovo a Tahiti, Cheyenne tenta più volte di suicidarsi. Alla fine del 1995, la ragazza si impicca in casa della madre. Al cimitero di Papeete, dove spicca l'assenza di Brando, Cheyenne viene sepolta accanto al fidanzato. Brando ormai rifiuta Tahiti, non ci tornerà più. Ha perso il suo gioiello più prezioso, la stella del suo paradiso. Ancora il biografo Peter Manso. Brando era un uomo terribilmente infelice. Cheyenne, per usare un'espressione shakespeariana, con la sua morte gli ha piantato un coltello nel cuore. La cosa più triste di questa storia è che lui si faceva del male da solo. Si avvitava su se stesso, si negava ogni forma di felicità. E come se non bastasse, alla fine viene spogliato di tutti i beni e la sua identità viene assunta da un impostore. Sì, è andata proprio così. 2 settimane prima di morire, è stata inserita una clausola nel testamento di Marlon che sostituiva i 2 eredi designati, e cioè Ellis Marshak, che aveva lavorato per lui più di chiunque altro, e Joanne Corrales. Ellis e Joanne furono tagliate fuori e rimpiazzate da estranei totali, da parenti sconosciuti, sbucati praticamente dal nulla, che d'improvviso apparivano come i migliori amici di Brando. In quel circo, di fronte alla carcassa informe di Brando, che pesava ancora 170 kg, tutti si affrettavano a sbranarla. 2 settimane prima di morire, Marlon Brando affida l'amministrazione di tutte le sue sostanze a 3 persone, tra cui un uomo d'affari e un avvocato di Hollywood che in realtà conosce a malapena. Nonostante le numerose cause intentate, il tribunale rispetta quanto scritto nel testamento. Così raccontano gli amici Bernard Judge e Susan Corrales. Brando era prossimo alla morte, non leggeva molto bene. Negli ultimi tempi bisognava leggergli tutto. È molto strano come sono andate le cose. Brando era bloccato a letto con i tubi dappertutto e sotto ossigeno. A malapena riusciva a muoversi. E vogliono farci credere che fosse cosciente di quello che faceva. E aggiungerei, dove sono i testimoni? Molti dei suoi amici, insomma, sospettano della veridicità del testamento. Ascoltiamo Scott Billups e George England. Lo hanno drogato con le medicine. Chi è stato? Le persone che lo hanno chiuso dentro. Cioè? Il codice di accesso alla casa era stato cambiato. Nessuno dei suoi amici poteva più andare a trovarlo. Ci avevano letteralmente chiuso fuori dalla sua abitazione. Un giorno mi ha chiamato e mi ha chiesto di passare. E io quasi non capivo chi fosse. Sono andato da lui, ma il codice di accesso non funzionava. Era stato cambiato. Non so se è stato ucciso, ma certo è successo qualcosa di strano. Solo che nessuno avrebbe potuto impedirlo, anche perché fino a 10 giorni prima era lucidissimo. Gli ultimi 2 anni in particolare si distinsero per un'assenza di moralità. Il testamento, il disastro, l'anarchia, il caos che ha lasciato. Beh, no, non userei proprio il termine moralità. Era assente una qualunque ragione di vita, che fosse l'amore o l'impegno sociale o politico o qualsiasi altra cosa. Alla fine della sua vita dominava l'assenza, la totale vacuità. Quando sedevamo qui l'ultimo giorno parlando della morte, lui era ancora convinto che io sarei morto per primo e mi diceva: George, cosa farò quando non avrò nessuno con cui ridere? È questo che ci fa andare avanti, che rende tutto possibile. Tu morirai, non è vero? Gli risposi: cercherò di evitarlo, Marlon, ma Marlon Brando potrebbe avere un funerale degno di Don Vito Corleone. Hollywood non aspetta altro che celebrarlo con un grande evento. Ma la sua volontà è di essere cremato sotto anonimato. Le sue ceneri vengono poi disperse nella Valle della Morte. L'amica Susan Corrales ricorda l'ultima promessa. Mi chiese: promettimi che nessuno mi vedrà mai da morto. E poi voglio che mi ricordino come nel loro film preferito o come desiderano, ma non voglio che mi vedano da morto. I familiari vorrebbero esaudire le sue volontà, ma fatalità. In quel giorno del luglio 2004 una tempesta di sabbia si abbatte sulla Valle della Morte, rendendo impossibile qualunque cerimonia. Nella sua urna Brando di sicuro se la diverte. Senza riuscire a vedere nulla, i suoi amici spargono le ceneri dal finestrino, a casaccio. Tarita poi sparge l'altra metà delle ceneri a Tahiti, nella laguna di Tatiaroa. Qui e in California, Brando è finalmente dove ha sempre sognato di essere, sulle ali del vento. Non sa, per sua fortuna, che il suo atollo è stato venduto a un costruttore di hotel per miliardari. I nuovi amministratori delle sue proprietà l'hanno svenduto per 2 milioni di dollari, eppure l'isola ne vale almeno 30 volte tanto. Brando non aveva venduto la sua bellissima isola nemmeno quando era più disperatamente a caccia di soldi. Voleva lasciarla ai tahitiani e a tutti quelli che amano la natura. Se solo sapeste il genio che aveva quell'uomo. Marlon era un personaggio degno di Shakespeare. La sua leggenda continuerà a crescere, se non altro per la difficoltà che c'è nel comprenderlo, per spiegarlo. Il successo è sempre qualcosa di misterioso, qualcosa che non conosciamo. Quanto ancora c'è da imparare su una persona? Su Marlon Brando c'è ancora molto, moltissimo. Ringrazio Rachele Bonani, Pietro Gentile, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani. Mix 24.